reportage. Giornate europee dello sviluppo. Il punto di vista del Parlamento europeo. Di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles. Ci troviamo alle giornate europee dello sviluppo. In questo momento sto passeggiando all'interno degli stand dove diverse ONG stanno raccontando ai partecipanti il loro lavoro. Vi vogliamo raccontare oggi quello che l'Europa fa per gli aiuti allo sviluppo, quali sono le difficoltà, quali sono le criticità e come il continente sta cercando anche di ragionare sul futuro di questo settore che si intreccia con altri temi caldi come ad esempio la lotta contro il cambiamento climatico. Quindi andremo a cercare di capire meglio il ruolo dell'Europa, un'Europa che è il maggior donatore a livello mondiale, ma dove c'è ancora una forte disuguaglianza e disparità all'interno delle percentuali e delle cifre che diversi paesi stanziano a favore degli aiuti allo sviluppo. Andiamo ora a scoprirne di più. It is a great pleasure to be here with you today and to open the 2015. In questo Euroreportage partiamo con la posizione del Parlamento europeo, incarnata dal suo presidente Martin Schulz, che, aprendo le giornate europee dello sviluppo, afferma: possiamo sradicare la povertà estrema entro il 2030. Schulz attacca i non pochi paesi europei che hanno mancato l'obiettivo dello 0,7% del PIL in aiuti allo sviluppo, per poi chiedere un ritorno a un finanziamento nel prossimo budget comunitario. Il 2015, sottolinea Schulz, deve essere un anno chiave nell'agenda per lo sviluppo. Prime Minister. Ma andiamo ora ad approfondire più nel dettaglio la posizione dell'Europarlamento. Lo facciamo insieme all'eurodeputata Elly Schlein dei Socialisti e Democratici. La Schlein siede nella Commissione Sviluppo a Strasburgo. Partiamo da un dato positivo: l'Europa è il primo donatore. Questo però ci mette anche in una condizione di grande responsabilità sulle politiche dello sviluppo a livello globale. Dall'altro lato siamo un po' schizofrenici, perché appunto la discussione che è in atto sul impegnarsi nuovamente a spendere lo 0,7% è ancora un po' arenata negli egoismi dei governi, che ovviamente manca della volontà politica qui, una volontà politica chiara. Quindi da un lato siamo i primi donatori, dall'altro vediamo i governi fare fatica ad impegnarsi, e secondo me non è solo segno di una mancanza di volontà politica, spiegata molto spesso con questioni di budget, no? Ma forse non sempre quelle sono le vere motivazioni. Io credo che sia anche il tema di una mancanza di visione complessiva, cioè le politiche dello sviluppo in realtà vanno ad intaccare quella che è la questione cruciale per me dei nostri tempi, che è la questione delle disuguaglianze, questo sia dentro i nostri stati che tra i nostri stati. Se noi non intacchiamo la questione delle disuguaglianze, ci troveremo ad affrontare sempre in ottica emergenziale tante altre sfide, come quella dell'immigrazione ad esempio. Allora è ovvio che in un mondo in cui il 30% della popolazione mondiale ha per le mani il 70% delle risorse, abbiamo Houston, we have a problem. I flussi capitali illeciti in uscita dai paesi in via di sviluppo sono 10 volte tanto l'ODA, cioè il totale degli aiuti che questi paesi ricevono. Questo rischia di rendere fortemente inefficace le nostre politiche dello sviluppo, per quanto ben intenzionate. Allora il tema è come riuscire ad attaccare, da un lato continuare con delle politiche con maggiore convinzione e con maggiore finanziamento, dall'altro evitare che sempre per politiche poco coerenti dell'Unione Europea, in specie quelle fiscali e del commercio, e con una mano togliamo quello che diamo con quell'altra. In quello che diamo come Europa, ha l'impressione che ci sia qualcosa oltre la semplice, tra virgolette, carità? Cioè c'è un approccio costruttivo da parte dell'Europa, o ancora non riusciamo a spendere bene le risorse che diamo in aiuti allo sviluppo? Ma questo è un tema molto caldo. Io sono ottimista, nel senso si fanno molte ottime cose. Ci vorrebbe, e su questo noi insistiamo sempre, un maggior controllo su come vengono spesi i soldi e un maggior controllo parlamentare. Noi siamo lì per questo, eppure ancora troppo spesso non abbiamo un controllo diretto su come vengono spesi i fondi. Però io appunto mi sento di dire che si fanno molte buone cose. Bisogna controllare di più, fare meglio e fare appunto di più, avere più mezzi a disposizione. Noi siamo in un anno cruciale, se ci pensiamo. Non è solo l'anno europeo dello sviluppo, quindi il primo anno europeo dedicato a una nazione esterna dell'Unione, è anche l'anno in cui avremo in fila a luglio la terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo ad Addis Abeba, avremo la conferenza sul clima di Parigi e avremo la ridefinizione dei Sustainable Development Goals, che sostituiranno i famosi Millennium Goals a settembre all'Assemblea Generale dell'ONU. Io vedo quello che si chiama un momentum politico politico in cui veramente riuscire a spingere avanti e a sviluppare politiche ancora più ambiziose. Ma come vedono gli organismi internazionali gli sforzi europei negli aiuti allo sviluppo? Abbiamo incontrato Arancia Gonzalez, direttrice esecutiva dell'International Trade Center. Va precisato che la Gonzalez è stata a lungo funzionaria di primo piano della Commissione Europea proprio nel settore commercio. Per cominciare le abbiamo chiesto di spiegarci cosa fa concretamente l'International Trade Center. Noi siamo un'agenzia di sviluppo con due particolarità. Una, siamo un mischio tra l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che crea delle opportunità commerciali, e le Nazioni Unite, che ha un mandato di ridurre la povertà nel mondo. Il nostro obiettivo è aiutare allo sviluppo economico. Come lo facciamo? Aiutando alle piccole e medie imprese nei paesi in sviluppo a partecipare nel commercio internazionale. Questo vuol dire aiutarle a migliorare l'offerta produttiva. È vero che tutti questi paesi in sviluppo hanno delle opportunità commerciali oggi. L'Unione Europea, per esempio, ha aperto il suo mercato ai paesi più poveri nel mondo, però molti di questi paesi non hanno un'offerta produttiva, non hanno la capacità di mettere sul mercato dei prodotti, dei servizi che noi consumatori siamo pronti a comprare. Dunque il nostro lavoro è aiutare tutti questi paesi a migliorare l'offerta produttiva. Perché questo obiettivo di sviluppo economico? Perché in questi 15 anni dopo l'adozione dei Millennium Development Goals abbiamo capito che senza un'economia forte, senza una crescita forte, sostenibile, incluente, non c'è una possibilità di veramente ridurre la povertà nei paesi. Dunque, obiettivo 1, economia forte, crescita, e questo è un mezzo incredibile, molto forte per ridurre la povertà. Dal vostro punto di vista, quindi diciamo più globale, internazionale, all'interno della sfera ONU, l'Europa è un esempio da seguire o è comunque un esempio che ha ancora grossi problemi? No, diciamo che l'Europa sta adesso passa per una fase un po' pessimista. Io vedo l'Europa piuttosto da un punto di vista più positivo. L'Europa prima di tutto ha aperto il suo mercato ai paesi, ai prodotti e servizi di questi paesi più poveri. Credo che quella è una precondizione necessaria. Dobbiamo cominciare lì. Secondo, l'Europa è il primo fornitore di aiuto allo sviluppo nel mondo. È l'Europa. E quello è buono, non è buono perché è una questione di carità per l'Europa, è importante per l'Europa perché si aiuta a sviluppare altri paesi. Questi paesi non sono all'origine dei problemi di migrazioni, di guerre, di conflitto. Più aiutiamo ai paesi a svilupparsi, più si riduce i rischi che questi paesi creano situazioni di instabilità. Dunque l'Europa ha capito che c'è un interesse proprio a aiutare questi paesi. A me mi piace molto l'aiuto allo sviluppo europeo perché è un mischio intelligente, secondo me, di aiuto, diciamo, più sociale, l'educazione in paesi terzi, aiuto a sviluppare i diritti umani, aiuto ai bambini, però anche un aiuto allo sviluppo economico. E ora le voci di due dei tanti young leaders che hanno preso parte alla Due Giorni sullo Sviluppo. Con loro approfondiamo temi importanti di cui si è discusso qui a Bruxelles: l'immigrazione e la cittadinanza globale. Qual è il messaggio che hanno portato ai leader? Partiamo con l'immigrazione. Ai nostri microfoni Birve Ambo, 25enne camerunense, fondatore di Mi Trajectoire, associazione che promuove l'integrazione dei migranti in Europa. Il mio messaggio ai leader è che non si può fare della migrazione un fattore di sviluppo se chiudiamo le frontiere. Il diritto all'immigrazione attualmente è riservato ai ricchi. Gli immigrati che si imbarcano sulle carrette del mare non hanno il diritto di emigrare. Io vedo una contraddizione tra quanto dicono i leader nei loro discorsi pubblici e la realtà sul terreno, dice con grande sincerità e forte spirito critico. Io vedo la contraddizione entre il discorso dei leader di questo mondo, in particolare degli europei, con la realtà sul terreno. Mario Nosieo, 24enne anglo-keniota, è venuta invece alle giornate europee dello sviluppo per parlare di cittadinanza globale. Essere un cittadino globale non riguarda solo i diritti e la responsabilità di cambiare e affrontare le ingiustizie, ma anche il valutare in modo critico se stessi, come individui, identificando stili di vita o ideologie che possono continuare a riprodurre le ineguaglianze. Quindi parliamo sia di azioni positive, quali lavorare per porre fine alle ingiustizie, sia di inazioni positive che evitino, cioè stili di vita in grado di creare barriere nelle nostre società. L'ultima intervista di questo reportage sarebbe dovuta essere con Sam Kutesa, presidente ugandese dell'Assemblea Generale dell'ONU, che nella due giorni ha partecipato a un dibattito, la state ascoltando in sottofondo, con l'alto rappresentante Federica Mogherini. Kutesa l'aveva fissata con questa radio e con un giornale spagnolo. Ha avvertito che il giornalista iberico aveva anticipato la propria intenzione di porre domande giudicate scomode, ha cancellato la sua intervista con lui per poi sparire dai radar anche con Radio 24. Pochi sanno che un politico dall'alto profilo internazionale come Sam Kutesa ha appoggiato nel suo paese, l'Uganda, una legge fortemente discriminatoria contro gli omosessuali che prevede persino il carcere. Su di lui è stata aperta addirittura un'indagine parlamentare nel suo paese con l'accusa di aver ricevuto mazzette da un'azienda petrolifera irlandese. Al di là delle cariche istituzionali, l'Europa dovrebbe forse evitare di coinvolgere in iniziative quali le giornate europee dello sviluppo personaggi così controversi. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.